Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Did you lose yourself in the mirror today? What did you see as you were staring so vacantly? What did you see as you were staring so blissfully? Giulio Capperdoni ad aver iniziato la seconda parte del volume numero 3 di Eclettica. Giulio@rockfamily.it. Memorizzate, questo è il nuovo indirizzo di riferimento, come anche il sito www.rockfamily.it, oltre ovviamente a quello personale di questa trasmissione myspace.com/eclettica, su cui trovate anche tutte le indicazioni relative al podcasting. La prima parte si era chiusa con due canzoni ben note di due artisti che ho trasmesso veramente tantissimo. Beh, forse per la seconda ho esagerato con il ben noto. È ben noto l'artista, non tanto il pezzo, visto che è assolutamente nuovo. Comunque, andando nell'ordine, ci siamo ascoltati i primi Cloud Cult con When Water Comes to Life e poi The Dodos da San Francisco. Il pezzo nuovo si intitola Ashley. E abbiamo aperto invece la seconda parte con Mirror da parte dei The Pharmacy e si prosegue con Morris Tepper, artista statunitense, artista in senso lato, visto che non è solo un musicista ma anche uno scultore e un pittore. Ha cominciato, relativamente solo alla sua carriera artistica dal punto di vista musicale, all'inizio degli anni Ottanta, accompagnando Captain Beefheart. Infatti sentiremo che un po' della sua eredità è rimasta, e poi ha lavorato anche con altri come Tom Waits, PJ Harvey e Frank Black. Ora è in uscita con un disco solista dal quale vado ad estrarre il pezzo intitolato Spider Cloud. that's what I spill. Maybe someone else is dreaming. Maybe that's why I kill. But it's difficult to say. Maybe that's why you fill. Maybe you breathe some powder. Maybe that's what I spill. Maybe that's how I kill. Miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Con la guerra que si festeja solo cuando lo che diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare. L'unica cosa che devi fare è massacrare, massacrare. L'unica cosa che devi fare è massacrare le tue paure. Restai sveglio a lungo, a guardarla. Osservavo i suoi lineamenti perfetti ed eterei. Tutto sembrava così irreale e meraviglioso. Catturai quell'immagine e la dipinsi sull'anima per ritornare sempre a guardarla. La mattina seguente al risveglio, Charlie non c'era. Il letto era vuoto, le lenzuola emanavano ancora il suo profumo di cannella. Pensai ad una canzone e con il motivo nella testa decisi di passare al negozio per vedere se fosse andata lì. Arrivato alla Rough Records vidi che al bancone c'era solo la simpatica ragazza grassa. «Cerca qualcosa in particolare», disse con gentilezza. Il mio sguardo scrutava oltre ogni scaffale. «Sto cercando Charlie. È passata di qui». Questo era ancora «Dove sei, Charlie?», una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. Thank you. Dimentichiamoci per un attimo il rock. Non è facile. Proviamoci. Fatto? Avete pulito le vostre menti dal rock solo momentaneamente? Bene. Ora accendiamo la radio e sintonizziamoci su Rock FM. Cosa sentiamo? Professionisti. Professionisti che esprimono se stessi alla radio, per cui collaborano con emozioni, spontaneità, competenza, simpatia. Sentiamo anche idee nuove. Idee nuove. Com'è possibile nel 2008, in un mondo dove la comunicazione è sempre più artefatta, ascoltare idee nuove? Ma cosa sono queste idee nuove? Voi lo sapete, sono volontà, costanza, impegno, cultura e sentimento. Siete voi il nuovo. È la vostra professionalità che scorre tutto il giorno attraverso le frequenze della radio. Non vi servono elementi come volgarità, sesso e pettegolezzi per comunicare. Questi servono ai professionisti del business, non della comunicazione. Non vi servono neanche programmi urlati o cavalcare battaglie impossibili e utopistiche. Questi strumenti vengono utilizzati con più o meno malizia da chi comincia a fare radio per farsi sentire e trovarsi uno spazio. Comunicazione vuol dire esprimere ciò che si ha dentro in una lingua che sia comprensibile ai destinatari, ascoltarne le risposte per poter rielaborare i contenuti e andare oltre. Voi siete andati oltre e siete riusciti a proporre qualcosa che prima non c'era. Una radio che parla di voi e che offre l'opportunità a chi ascolta di guardarsi dentro per scoprirsi ed eventualmente rispondervi se se la sente. Tutto questo senza gli strumenti delle network e senza l'ingenuità delle radio locali. Ascolto Rock FM dai primi anni 90, ma solo negli ultimi anni ho iniziato ad ascoltarvi diversamente. Mi avete fatto provare emozioni attraverso le vostre parole e naturalmente attraverso la nostra musica. Quindi grazie a Ariele, Marco, Claudia, Edo, Mox, Giulio, Fabio e tutti gli altri. Scrivo solo a voi perché siete quelli che ho ascoltato con maggior frequenza. Un grazie soprattutto a Ariele che mi ha fatto conseguire la patente da vero rocker. Un documento unico a cui ho attribuito il valore simbolico di contenitore di emozioni vere, provate ascoltando musica. Da quando ho iniziato a gettarmi nel rock e prendere coscienza di quanto il rock sia stato e sia tuttora fondamentale in ogni momento della mia vita. Rock FM ha fornito l'esempio di una radio veramente diversa, dove le parole, unite alla musica, sono stati gli unici ingredienti che sono stati trasmessi nelle diverse ricette che avete inventato e sperimentato in questi anni. Se Rock FM è costretta a chiudere, vuol dire che ha raggiunto il vero successo artistico, mai raggiunto dalle altre fiorenti radio rette esclusivamente per ragioni commerciali. E ogni mito che si rispetti quando raggiunge la vetta si ritira, perché ogni cosa che farebbe dopo sarebbe una brutta copia di se stesso. Grazie ancora a tutti voi. Andrea, patentato numero 147. Dimentichiamoci per un attimo il rock, questo è il titolo del mail che ho voluto leggere quest'oggi a rappresentare le centinaia di mail arrivati in questi ultimi giorni e le migliaia che sono arrivati da quando abbiamo dato la notizia, e chissà quanti saranno ad arrivare fra mail, sms, da qua fino al 31 maggio. Di tanto in tanto ne seleziono uno e lo leggo in onda. Spero che queste letture siano gradite da tutti voi che siete all'ascolto. Servono per capire che cosa è Rock FM e che cosa lascia. Eclettica, che riprende lo spazio da dedicare alla musica dopo avervi fatto ascoltare i Marta sui tubi, prima con L'unica cosa e poi Borco con Ding Dong King Dom, quindi in ordine Italia e Islanda. Ed ora invece Stati Uniti, per la precisione la città è quella di New York City, anche se loro originariamente provenivano da Washington DC e sono nati e cresciuti nella scena hardcore. Ora i loro suoni si sono allontanati da quelli originari, di cui comunque rimane una piccola traccia. Si chiamano French Kicks e sono usciti il 1 d'aprile in versione digitale, poi il 20 di maggio sarà anche la versione ufficiale su Vagrant, con un nuovo album dal titolo Swimming. Questa è Abandoned. Yeah. I ran out of gas. I had a flat tire. I didn't have enough money for cab fare. My truck didn't come back from the cleaners. An old friend came in from out of town. Someone stole my car. There was an earthquake. A terrible flood. Locust! It wasn't my fault, I swear to God! Clouds. We drift and dry up with doubts. I never knew what the simple things were all about. The rush of reeling around. We shift and sprawl and spread out. And I've never clung to such simple things until now. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 25, volume numero 3, indice, DMs, Future Islands, M83, Cloud Cult, The Dodos, The Pharmacy, Morris Tepper, Marta sui tubi, Borco, French Kicks, The Plastic Constellations. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.